Saverio. Salve Nicoletti, io volevo raccontare, anch'io sono di quell'epoca lì, quindi tutti gli eroi, Pippi, Zorro. Allora, mascherarsi da Zorro, noi bisognava aspettare il carnevale, cioè Zorro era quando c'era, dopo andava imitato, andava fatto. Un piccolo aneddoto, allora il mio cavallo era un bastone di castagno lungo certo, anch'io ho fatto un paio di metri con una briglia di fil di ferro, di spago, quello che era. La spada, un bastone più piccolo con il paramano, una bella testa di bottiglia di varichina, possibilmente colorata, ma quando si diciamo che anche le mollette da panni per fare le alze delle spade funzionavano. No, cosa a me mi fa ricordare sempre, e c'ho anche un bel segno sulla fronte di Zorro, che a scuola avevo battuto tutti, proprio correvo come un matto. E dovevo provare per forza, siccome avevo provato altre volte, legando il grembiule nero intorno al collo per fare il mantello, certo, dovevo correre, però non sventolava, perché diceva perché non corre abbastanza. Quella volta lì io avevo battuto tutti, doveva sventolare. E allora io ci ho provato lì, mi sono preso il mio cavallo, mi sono cacciato lì a correre, mi sono girato correndo per vedere lì, ho dato una craniata lì, mi hanno messo 3 punti in testa. Quindi lei ha il segno di Zorro, come Harry Potter? Io ho un segno, non è una Z, è una specie di 7, però, cioè ci manca una gambetta. È come Harry Potter, vede che lei ha avuto una sorta di preveggenza nell'autolesionismo infantile e quindi dimostra che il paese del balocchi è ben lontano dall'essere all'occhio.